greatest of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Senator from Washington State that's worked so hard and so long and in such a professional way, and she's been extremely helpful to me through this process, and I want to acknowledge that and thank her. Questa che in questo momento sta lodando il ruolo del presidente Barack Obama è una delle donne del giorno nella scena politica americana. Si chiama Mary Landrieu ed è una democratica, una senatrice democratica dello stato della Louisiana. Lei, insieme alla collega Blanche Lincoln, sentite che nome straordinario, che invece rappresenta lo stato dell'Arkansas, sono state le ultime a accettare di dire sì alla proposta proveniente dall'amministrazione Obama. In sostanza hanno dato per ultime il loro consenso ad aprire in Senato un dibattito sul testo proposto riguardante la riforma della sanità. Hanno detto, specificato, ripetuto, ribadito, dal momento che sono mai come ora sotto la luce dei riflettori, che il loro è un sì condizionato, che così com'è la legge non va bene per niente, che tante dovranno essere le modifiche, ma hanno detto sì, pare, al termine di una cena insieme. Pensate un po', sono andate a cena insieme anche in compagnia di due colleghi maschi, sempre compagni di partito, ovvero Michael Bennett del Colorado e Mark Warner della Virginia. Sono andate a cena attorno a un bicchiere di vino rosso, speriamo più di uno, anzi alla fine hanno capito che dovevano dire di sì, anche se così facendo corrono qualche rischio presso l'elettorato locale, quello che le ha mandate a Washington e che potrebbe non essere d'accordo con la loro scelta di dare strada alla proposta di riforma della sanità voluta da Obama. Però si sa anche che, ad esempio, le prebende ottenute in cambio a questo sì sono, come dire, sensibili. Certamente è trapelato, ad esempio, che la Landrieu ha portato in dote allo stato della Louisiana e in particolare alla città di New Orleans fior di quattrini che andranno, come sempre, a rafforzare l'infinito piano di recupero dopo i danni provocati dall'uragano Katrina. Quindi comunque c'è stato un do ut des, quindi si procede sulla strada della discussione. Naturalmente le proposte in tema di aborto e la public option, la partecipazione dello Stato all'offerta per assicurazioni sanitarie sono i principali centri di interesse e di dibattito. Basterà il 2009? C'è chi dice di sì, in tanti pensano di no. Staremo a vedere, anche perché Barack Obama in questo momento ha anche altri grattacapi. I believe there can be a great partnership between us, but it will require a compromise and understanding. Thank you, Mr. President. I would like to add that I completely understand. Questo, come capirete facilmente, non è Barack Obama e questo non è neanche Ugin Tao che parlano, ma è la presa in giro che hanno fatto immediatamente al Saturday Night Live del loro incontro, della loro conferenza congiunta. Non sono stati per niente teneri i media americani con Obama di ritorno dall'Asia. Non è piaciuta forse l'eccessiva visibilità e al tempo stesso la scarsezza di risultati pratici ottenuti dal presidente americano dall'altra parte del mondo. Non a caso sono già oggetto di satira, come avete appena ascoltato. Di fatto però ci sono anche dei numeri che preoccupano molto Barack Obama, e sono quelli che riguardano il suo gradimento, che per la prima volta proprio in questi giorni e proprio mentre sta accadendo al Senato quanto vi abbiamo raccontato, danno delle rilevazioni ufficiali Gallup, ma non solo Gallup, che collocano sotto il 50% il gradimento di Obama presso gli americani. La prima volta che si va su livelli così bassi, ed è probabile che naturalmente economia, dibattito sulla sanità e Afghanistan siano i temi centrali al centro anche di questo sconcerto, addirittura scontento di elettori che fino a poco tempo fa lo avevano sostenuto. Se pensate che lo slittamento è di oltre il 20%. 10% delle preferenze, delle simpatie nei confronti di Obama. Di fatto, mentre si entra in questa che è la settimana del ringraziamento, anche la settimana del Black Friday, quello in cui tutti gli americani vanno a comprare tutti insieme i regali di Natale, succede puntualmente un casino pazzesco, ma insomma questa è anche la settimana in cui Barack Obama fa sapere che per ora non farà sapere la propria decisione sull'Afghanistan, ovvero sullo stanziamento di truppe, di nuove truppe da inviare in Medio Oriente per sostenere il fronte americano in Afghanistan. Il suo portavoce Robert Gibbs ha infatti annunciato che la decisione sui rinforzi in Afghanistan non arriverà prima del ringraziamento. Se ne parla la settimana prossima, anche allorché, no, tanto per prendere il toro per le corna, anche la questione della sanità al Senato raggiungerà il suo punto più caldo. Primo piano. The Volturi are the closest thing my world has to royalty. They enforce the law. Vampires have laws. È lunedì e in televisione e sui giornali gli americani vedono, leggono, osservano, si sentono raccontare anche come loro stessi si sono comportati in veste di consumatori, in particolare in consumatori di showbiz, di spettacolo, di attrazioni a loro offerte, in primo luogo dalle major, e trapela un numero eccezionale che poi si arricchisce, si gonfia a livello planetario. Il numero eccezionale è quello dei 140,7 milioni di dollari registrati nel primo weekend nei cinema americani da questo benedetto Twilight New Moon, di cui sentite in sottofondo gli effetti, il nuovo capitolo della saga teenageriale dei vampiri che, come dice Letterman, somigliano in modo inquietante anche ai nostri figli. Pensate un po' che dai 141 milioni americani si passa velocemente ai quasi 260 milioni su piano planetario, su piano globale, internazionale, registrati, incassati dal film, che promette quindi di essere una delle più formidabili macchine da quattrini mai inventate da Hollywood. C'è anche qualcun altro che raccoglie molti quattrini. Sarah Palin is called upon in 212 to run for president, whether it be in a Republican Party or an Independent Party. And I'm going to interview then, and I'm going to say, look, Iran is this far away from getting a nuclear weapon. This far away. How are you going to stop them? Let's start considering the sanctions that we should have been applying already. Ecco la voce arrotatissima che state imparando a riconoscere, perché in questo momento, in queste ore, Sarah Palin è in tutte le televisioni, in tutti i programmi, in tutti i talk show e sembra anche in tutte le librerie d'America, sicuramente con il suo volume che nei primi giorni di uscita ha registrato, anzi nel primo giorno di uscita ha registrato niente meno che 300.000 copie vendute, un successo impensabile, tra l'altro anche delle recensioni meno peggio di quello che si pensava in un primo momento. C'è chi dice che soprattutto la parte personale del libro è di grande interesse e sicuramente è seguita dai media con grande interesse la tournée promozionale che la Palin sta facendo, vagando per centri commerciali persi nel cuore dell'America profonda, che poi è la sua America, no? È quella dei suburbia, dei grandi insediamenti residenziali fuori dai centri città più appassionati, dove invece viene vista con molto maggiore snobismo. La domanda che noi poniamo a questo punto è: ma vi siete resi conto, insomma, in buona sostanza, anche guardando a quanto aveva fatto Obama nel 2006, altro libro, altro tool promozionale, ma vi siete resi conto che quello a cui stiamo assistendo altro non è che l'inizio di una campagna elettorale con tutti i crismi? Insomma, non è soltanto un libro, a parer nostro, che è in gioco per Sarah Palin, è qualcosa di molto più grande e, come dire, i movimenti già sono cominciati. Però chiudiamo invece con una notizia piccola piccola, prima di avere un gradito ospite nella seconda parte del programma. Notizia piccola piccola è quella che un'asta ha battuto una piccolissima lettera scritta da Abramo Lincoln, personaggio verso il quale il nostro cuore sempre si ammorbidisce, scritta a un ragazzino. È stata venduta per $60,000 a un collezionista, questa lettera autografa di Abramo Lincoln, ed è una storia piccola appunto ma divertente. Il bambino in questione. Il a cui è stata indirizzata la lettera si chiamava George Patton, era il figlio di un amico di Abramo Lincoln, e a scuola aveva detto: guardate che io il presidente lo conosco, e tutti i compagnucci gli avevano puntualmente riso in faccia. Allora lui aveva scritto a Lincoln dicendo: puoi fare qualcosa per far smettere questa persecuzione? E Abramo Lincoln, che era stato anche avvocato, ha scritto quanto segue: a tutti coloro a cui può interessare, io ho visto e parlato Mastro George Ivan Patton, così lo chiama, prendendolo in giro naturalmente, lo scorso maggio a Springfield, Illinois. Con molti rispetti, Abramo Lincoln. Father was a drinker, and his mother cried in bed. Buongiorno America. Abbiamo un ospite gradito ora in studio con noi, Federico Rampini. Tante volte, devo dire, gentilmente ai microfoni, prima di Jefferson e adesso di Buongiorno America. Il motivo per cui è a Roma, dalla sua nuova sede di lavoro a New York, in qualità di corrispondente dagli Stati Uniti per Repubblica, è la presentazione del libro che a sua firma è appena uscito in libreria. Si chiama Slow Economy, Rinascere con saggezza, sottotitolo: tutto quello che noi occidentali possiamo imparare dall'Oriente, un bellissimo fiore giallo su sfondo blu in copertina, edito da Mondadori, e per appassionati, fan, seguaci e curiosi, presentato oggi alle ore 18 a Roma, a Feltrinelli, Galleria Alberto Sordi, con il contributo di Antonio Di Bella. Federico, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Dacci comunque per introdurre, presentare lo spirito, il senso di questa iniziativa editoriale assai, come dire, assai particolare, per come, no, pesca al di fuori dell'universo della politica e dell'economia, su cui poi rivolge il proprio interesse, degli stimoli per ripartire. Via. È un libro molto personale, perfino autobiografico, perché è maturato in un frangente particolare della mia vita, quando ho lasciato l'Asia dopo 5 anni di vita in Cina, in India, e mi sono ritrasferito negli Stati Uniti, dove avevo vissuto in California, adesso invece a New York. Ho cercato di distillare dai miei ricordi di vita asiatica, ricordi di viaggi, di personaggi, di storie, e gli insegnamenti più preziosi che ci possono servire a noi occidentali in una fase in cui la slow economy può essere una condanna, se significa soltanto crescita lenta, perché significherebbe difficoltà per tanti giovani, per esempio, che cercano lavoro. Può diventare invece un progetto, un orizzonte positivo e perfino sereno, se all'interno di una cultura della lentezza operiamo delle scelte di qualità che aumentano il nostro benessere sociale. Di un ripensamento di stile prima che una rinuncia, che naturalmente Federico analizza attraverso, prima di tutto, insomma, questa bipolarità e forse anche questo passaggio di testimone fra Oriente e Occidente, fra scenario americano e scenario di quella Cina-India che a più riprese ha indagato. Ma adesso vorrei coinvolgerti su dei temi del presente. Vi ricordo comunque la presentazione di oggi alle 18 da Feltrinelli a Roma, se siete nell'area di Roma, con Federico. Per tutto un parere su quello che è successo in questo weekend, evidentemente i lavori, poi anche ai politici americani non piace tantissimo lavorare il weekend, ma sono rimasti a Washington, hanno votato almeno al Senato e ha fatto questo passetto avanti, questo procedimento della sanità, riuscendo a compattare una maggioranza democratica che tutto mi sembra meno che unita. Come analizzi questo nuovo piccolo cambiamento? È un punto a favore di Obama, un punto, gli dico proprio, uso il termine un punto, perché questo è un match di box tra Obama, tra soprattutto l'ala sinistra del Partito Democratico e il blocco di potere del capitalismo sanitario privato, che non finirà con un KO, non finirà con una vittoria schiacciante, finirà con una vittoria ai punti, con tanti compromessi. Per ora sembra ancora possibile portare a casa quello che che l'aspetto qualificante della riforma, essenziale, cioè che esista, che venga introdotta un'assicurazione di tipo pubblico in concorrenza con le assicurazioni private per calmierare le tariffe che stanno schizzando a dei livelli assurdi. Queste strane signore apparse alla ribalta della scena politica americana per aver detto no, no, no, poi ni, poi un sì molto, molto strizzato, in cambio sembra di formidabili prebende, no? La senatrice della Louisiana ha avuto non so quante centinaia di milioni per giustificarsi a fronte di un elettorato locale, evidentemente molto, molto guardingo sul tema. Non riesce a passare l'informazione fino in fondo sul fatto che ci sarebbe da guadagnare un po', se non per tutti, insomma, di equilibrare uno scenario, no? Ma è una battaglia furibonda quella che si svolge negli Stati Uniti, senza esclusione di colpi, in un paese dove il rapporto tra denaro e politica per certi versi è più trasparente, perché tutto accade alla luce del sole, cioè i finanziamenti dell'industria, delle compagnie assicurative private che vogliono mantenere lo status quo, ai deputati, ai senatori, sono tutti denunciati, nel senso che vengono dichiarati più che denunciati, sono dichiarati alla luce del sole. E, dall'altra parte, per fortuna, la base democratica del Partito Democratico più tenacemente legata a una riforma di tipo progressivo ha imparato a usare le stesse armi. Ci sono dei movimenti come Move On, nato a San Francisco ormai più di 10 anni fa, che sanno raccogliere fondi anche loro molto efficacemente, tante piccole donazioni di cittadini che usano anche il portafoglio per fare politica. Di oggi però la notizia che è sceso ancora l'indice di gradimento di Barack Obama sotto il 50%, dando il segno che ci sia comunque ormai diffusa, anche seppure in aree particolari d'America, più che altrove, magari più che nelle metropoli, una insoddisfazione, un mandato di fiducia a termine o forse addirittura un mandato di sfiducia ormai espresso nei confronti dell'operato dell'amministrazione. Come reagisci? I cittadini americani al tempo stesso hanno la memoria corta e sono naturalmente, giustamente impazienti. Hanno la memoria corta perché non si rendono conto che Obama ha ereditato, diventando presidente, un'eredità veramente micidiale, cioè la più grave recessione dai tempi degli anni 30, 2 guerre, quella di Iraq che non è finita e quella dell'Afghanistan, e poi una serie di problemi sociali. La riforma sanitaria è solo uno dei tanti aspetti. Ormai a più di un anno di distanza dalla vittoria elettorale di Obama, la gente non considera più che questi problemi siano siano un lascito dell'amministrazione Bush. Ormai chiedono dei conti a Obama stesso, e la cosa che secondo me lo penalizza di più è proprio la situazione dell'economia, più ancora della guerra in Afghanistan. L'economia che apparentemente è tornata a crescere, che addirittura, se uno guarda gli indici di Wall Street, è in piena euforia, ma che nella realtà del mercato del lavoro in realtà si traduce in costante aumento di disoccupazione, certo, è il problema numero uno. Il fatto che pur crescendo la disoccupazione resta lì, jobless, no? Proprio una due problemi che in un certo senso stanno quasi prendendo strade diverse. Però ti voglio chiedere una cosa sull'altra notizia del giorno sui media americani, queste 300.000 copie vendute, con un libro in uscita. Sarei invidioso, insomma. Sara Palin ne ha fatte 300.000 il primo giorno e hanno alzato da 1,5 milioni a 2,5 milioni, ormai chi offre di più le copie tirate, evidentemente battendo Hillary Clinton di 100.000 copie quando a suo tempo uscì con il suo libro. Evidentemente c'è un mondo, insomma, dietro un fenomeno come Sara Palin che si muove. La domanda che ti voglio fare io è questa: nel 2012-11, diciamo, vedi Sara Palin nel talk show più ascoltato d'America o la vedi invece in giro per la nazione con una campagna elettorale in corso? Io propendo per la seconda ipotesi. Credo che lei stia veramente puntando a ricostruirsi come candidato presidenziale stavolta, non come candidata al, certo, vicepresidente. È questa nuova tendenza che caratterizza la destra repubblicana negli Stati Uniti, che è stata battezzata PopCon. C'erano i neocon, certo, i neoconservatori, questi sono i di base. È una forma molto molto populista della destra conservatrice. Fa presa su alcune fasce della popolazione, però può anche portare il Partito Repubblicano al disastro, perché ha delle punte estreme di tale rozzezza, di tale fanatismo. È una destra becera, francamente. Potrebbe essere un castello di carte. Può allontanare gli indipendenti moderati, che sono comunque sempre l'elettorato decisivo. Va bene, ti ringrazio. Ringrazio Federico Rampini. E vi ricordo il titolo del suo libro, Slow Economy, Rinascere con saggezza, che poi presenteremo con calma e approfondendone i contenuti qui a Buongiorno America. Auguri naturalmente per la tua corrispondenza negli Stati Uniti e per le tue imprese editoriali. Grazie Federico. Grazie. E con la gentile partecipazione in studio di Federico Rampini, questo era Buongiorno America di oggi, del lunedì. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera. Vi ricordo la mail del programma, buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook, redazione Jefferson 3, per approfondire i temi della trasmissione quotidiana. Andiamo in replica 10 minuti dopo mezzanotte, e invece la diretta torna domani, poco dopo 1:30, qui su Radio 24. State tutti bene.